Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Piercarlo Ceccarelli. Buonasera, buonasera Fabio, come sta? Tutto bene, grazie. Siamo qui per presentare il suo libro Azienda, Maledetta Azienda, un libro delle edizioni Mind, un libro che parla appunto dei problemi attuali delle aziende. Piercarlo Ceccarelli è un consulente aziendale, ha una propria azienda e questo libro viene dopo un altro libro che pubblicato un paio d'anni fa, L'urto della crisi, ne avevamo parlato in questa rubrica. Adesso questo titolo molto provocatorio, Azienda, Maledetta Azienda, come le è venuto in mente, dottor Ceccarelli? Il clima in cui operano le aziende di oggi in Italia è veramente molto difficile, l'ostilità incalza e l'ostilità brucia energia e rende infelici. Brucia energia vuol dire più costi, vuol dire inefficienza, e rende infelici vuol dire poca efficacia perché non si vedono le opportunità. Quindi l'azienda è vista più come un oggetto un po' da diciamo da contenere, da osteggiare, quasi che fosse un problema invece che un'opportunità nell'attuale contesto, diciamo così, culturale italiano? Assolutamente sì, i segnali sono forse ancora un po' deboli in alcuni comparti, ma in alcuni altri sono molto forti. Pensiamo alle istituzioni che continuano a metterci di fronte a delle tasse incredibili, pensiamo all'IRAP, siamo l'unico paese al mondo che ha applicato l'IRAP nel modo in cui lo abbiamo applicato noi. Certamente è molto difficile per le imprese portare a termine i loro programmi. Ecco, Einaudi diceva che le imprese sono come un pesante carretto trainato da due buoi che fanno molta fatica, insomma, e non ci si accorge che bisognerebbe aiutare questi buoi a fare il loro percorso, invece gli si pone degli ostacoli. Ecco, in Italia sono molti gli ostacoli per le imprese, ma l'Italia è anche un paese di grande imprenditorialità. Ci sono molte imprese che sono degli esempi, dei modelli, che sono imprese che competono e che riescono a stare sul mercato, ma anche sui mercati internazionali. Assolutamente sì, noi anche in questi anni difficili vediamo un gruppo di imprese interessanti, quelle chiamate del quarto capitalismo, che stanno mettendo successi dietro successi, ma non dimentichiamo che anche loro devono remare contro, anche loro hanno difficoltà in casa ad avere un ambiente favorevole a poter operare, a poter decidere, a poter competere. Questa è la realtà quotidiana. Ecco, in questo libro ci sono molti casi aziendali, in particolare 16 protagonisti di aziende che parlano della loro esperienza. Qual è, diciamo, il filo comune che mette insieme queste diverse esperienze? Beh, devo dire che è da lì che nasce l'idea di questo libro, perché parlando con loro è emerso che tutti questi 16 personaggi devono remare contro, hanno a che fare con uno Stato che emette leggi contrarie alle imprese, hanno a che fare con organismi della burocrazia sia nazionale sia locale che interpretano queste leggi sempre in una chiave contro delle imprese, hanno a che fare con la popolazione che non vuol più vedere dal proprio terrazzo una ciminiera. Hanno a che fare continuamente con strutture che impediscono il loro operato, e da queste conversazioni, da questi approfondimenti che ho fatto, nasce proprio l'idea di questo libro. Ecco, ma allora qual è la risposta che danno questi imprenditori di fronte a queste difficoltà? Quali sono gli strumenti che possono mettere in pratica? Quali sono le strategie che possono applicare per superare queste difficoltà oggettive? Beh, da una parte si sono resi conto che la complessità è comunque aumentata in modo incredibile, pensi all'interrelazione tra demografia, finanza, tecnologia, hanno creato veramente una serie di situazioni complesse che hanno bisogno di nuovi strumenti di management, e questi personaggi ne sono alla ricerca. Poi, come persone intraprendenti, hanno deciso di andare all'attacco, invece che aspettare che altri risolvano i problemi, di andare all'attacco e fare in modo che appunto le regole del gioco non si possano cambiare, in modo da trovare lì dentro delle nuove opportunità. E poi questi personaggi hanno capito e deciso, convenuto che l'innovazione debba essere la strada per poter trovare un percorso solido per il proprio futuro. Ecco, innovazione, ma che significa prevalentemente, nella loro chiave di lettura, integrazione di prodotti e servizi, magari cose già disponibili sul mercato, ma portate, elevate per indirizzare nuove utilità. Ecco, forse non ci si rende conto che quando si parla appunto di crescita del settore dei servizi, di diminuzione del settore industriale, comunque il settore dei servizi è strettamente collegato con quello dell'industria, quindi senza un'industria forte non si potrebbe essere nemmeno un settore dei servizi forte, quindi non, è forse scorretto, ma se lo dica lei, se è scorretto appunto parlare di Italia post-industriale, l'Italia deve essere ancora un paese industriale. Sono totalmente d'accordo con lei. Ricordiamoci che siamo il secondo manifatturiero d'Europa, ricordiamoci che è vero, il manifatturiero occupa soltanto il 25% dei lavoratori, ma trascina con sé il 30% dei lavoratori nel mondo dei servizi. Ricordiamoci che le nuove statistiche sul import-export mostrano molto chiaramente che il valore aggiunto trattenuto in un paese è funzione del manufacturing collegato e integrato nei servizi. Quindi in realtà post-industriale mi pare che sia una etichetta sbagliata per il momento in cui stiamo vivendo. Ecco, quindi l'imprenditoria comunque continua a resistere, continua appunto a mantenere queste imprese, a cercare di rilanciarle. Quali sono i fattori fondamentali? Ecco, prima ne abbiamo parlato, i fattori anche esterni, ma all'interno dell'azienda, ecco, per esempio, come coniugare la necessità di dare spazio al merito, alla capacità, come far sì che le risorse umane vengano valorizzate all'interno delle imprese se invece gli schematismi anche interni alle aziende rischiano di prevalere. Quali sono le possibili uscite in questa situazione? Ma la dimensione umana dentro l'impresa è un'opportunità che è stata appena scalfita dal comportamento delle aziende e anche nella conoscenza da parte dei ricercatori. Io sono veramente convinto che bisogna rendersi conto che la conoscenza in azienda è disponibile, ma è frantumata e parcellizzata in molte persone, funzioni, unità, e che quindi ci sia bisogno di poter portare a fattor comune questa parcellizzazione per comporre un unicum, una conoscenza di livello superiore sulla quale solo è possibile veramente formulare una strategia di livello superiore, con le stesse persone poi che dovranno realizzarla, cioè senza creare le normali frizioni tra chi pensa e chi agisce. Pensiero e azione devono veramente essere integrati, e questa è la sfida che abbiamo davanti. Ecco, una sfida che deve anche poggiare su dei valori di fondo che non possono però essere che valori in fondo umanistici, di fiducia nelle persone, di fiducia nelle capacità delle persone e quindi anche della fiducia nella capacità di elaborare soluzioni nuove, diverse, senza irregimentare appunto le competenze attraverso delle regole molto rigide. In questo senso però il cammino da fare per le aziende italiane è ancora molto lungo. È molto lungo, ma infatti dobbiamo partire da capire che cos'è il rischio, perché la gente nelle aziende spesso si vede il rischio come necessariamente collegato a opacità, mentre il rischio non è altro che il fondamento dell'innovazione, cioè del progresso. Quindi bisogna veramente che la trasparenza permetta di accettare il rischio, e con questo presupposto allora la collaborazione e il clan, impresa come clan, funziona veramente. E naturalmente trasparenza vuol dire tutto, trasparenza vuol dire poi legalità, vuol dire poi meritocrazia, vuol dire poi carriera, vuol dire tutte queste cose. Ecco, e poi anche come obiettivi, come strategie anche esterne, l'azienda, lei parla nel suo libro, deve avere come obiettivo quello della sostenibilità, che è un termine molto usato in questo tempo, soprattutto nei confronti dell'ambiente. La sostenibilità ambientale è un punto di cui si parla molto, ma forse i contenuti di questo elemento sono ancora poco chiari. Cosa vuol dire avere un'azienda socialmente sostenibile, ecologicamente sostenibile, in fondo economicamente sostenibile? Ma sostenibilità, io credo che le quattro sostenibilità, quella culturale, quella sociale, quella economica e quella ambientale, vanno affrontate tutte insieme, e mi pare di poter dire che l'Europa sia il contesto tra le aree del pianeta che è più credibile in questo sforzo, e io vedo proprio nella capacità di indirizzare questo mondo della sostenibilità la possibilità di trovare opportunità e di trovare nuovi prodotti e servizi. Sono stato in Germania recentemente e mi sono veramente convinto che sia credibile il fatto che la sola sostenibilità ambientale possa in quel paese rappresentare il 20% del PIL nel 2015, cioè dopodomani. Quindi qui dentro vedo il modo per le imprese italiane e europee di differenziarsi, abbandonare, allontanarsi dalla competizione sul prezzo per poter fare la competizione sulla differenziazione sfruttando questa opportunità delle sostenibilità. Ecco, lei quindi conclude con un po' di ottimismo parlando di un possibile nuovo rinascimento industriale. È una parola un po' grossa parlare di rinascimento industriale, ma è l'ottimismo della volontà o l'ottimismo della ragione o tutte e due? Ma devo dire la verità, questa parte del libro poi la sto sviluppando ulteriormente e man mano che la sviluppo mi rendo conto che è l'ottimismo della ragione, nel senso che è veramente possibile lavorare in modo nuovo perché l'Europa è il mercato più sofisticato del mondo e ogni innovazione per poter avere successo ha bisogno del mercato e chi capirà che l'Europa è il mercato più sofisticato farà le innovazioni che avranno successo domani. Ecco, un mercato che deve funzionare, speriamo che appunto questi richiami alla necessità di guardare alle imprese come dei fattori positivi possano veramente fare breccia anche in chi deve decidere politicamente sul futuro italiano e quindi su tutti noi. Abbiamo parlato e ringraziamo Carlo Ceccarelli, abbiamo parlato del suo libro Azienda, Maledetta Azienda, perché l'Italia non può sopravvivere se non torna a fare impresa, edito dalle edizioni Mind, sono 112 pagine per 18 euro. Grazie a quanti ci hanno seguito, come ringrazio Filippo Aureggi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona serata.